realizza. Tutto sa che le mani sta di su, in Francia nella città, c'è sempre tanto se te potesse, ma per questo c'è sempre la tua vita, ma la tua prima già ne ha nata tu, dare di sciare le fonci tu. Mata tu ti slaga, mata tu pascara, guardarci a sarà, forza tutte le uomini, uomini, penso sarà. Yes, I'm not that deep.